Summertime di Elisabetta Fiorito. Attentato a Falcone, giugno 89 alla Daura. Gli avevano piazzato il tritolo sui biscoli sotto casa sua. Ah, via. Spie istituzionali. Ora lo scoprono dopo 20 anni, capito? Cosche e uomini sporchi dei servizi segreti. Hai capito che stai leggendo? Cosche e uomini sporchi dei servizi segreti tutti insieme per farlo fuori. Avanti, leggi. 21 anni dopo, la svolta delle indagini per il fallito attentato porta i nomi di uomini di rango di Cosa Nostra e trova, non ci vedo, trova un filo comune con un'altra strage. Mi è da meglio. Quella che te da meglio. Tra gli indagati c'è, leggi. Tra i nuovi indagati c'è anche uno dei killer... Piano, capisci, da capo, leggi. Tra i nuovi indagati c'è anche uno dei killer condannato per l'omicidio di Paolo Borsellino e della sua scorta. Lo sa come si chiama questo metodo? Facciamo confusione. E funziona, sai, non veramente, te lo giuro, funziona. Via da meglio, capace, le stragi. L'agenda di Borsellino che scompare, fascicoli che si mischiano con altri, pagine mancanti. Un disordine perfetto. No. Un disordine perfetto. Buongiorno, buon pomeriggio. Il 19 luglio 1992 veniva ucciso nella strage di Via D'Amelio l'ultimo eroe nazionale Paolo Borsellino, e oggi Summertime lo ricorda a suo modo, lo ricorda col teatro, il teatro come impegno civile che sa trasmettere grandissime emozioni e soprattutto ci sa indicare una strada, quella del ricordo, di non dimenticare quello che sono stati Falcone e Borsellino. Buongiorno ad Emanuela Giordano, che ha scritto il testo Ci posso offrire qualcosa, stasera alle 21.30 presso la centrale Montemartini di Via Ostiense a Roma, e questo testo è con Claudia Guzmano e Laura Rovetti. Emanuela, come ti è venuto in mente di scrivere un testo così impegnativo? Innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a tutti. Guarda, il 30 maggio del 2008 mi è arrivato il memoriale di un collaboratore di giustizia di Paolo Borsellino, raccolto dal fratello Salvatore Borsellino, per mia via per posta elettronica ovviamente. Lo leggo, mi sembrava di leggere della fantascienza, mi sembrava troppo, ma la cosa incredibile è che nessuno ne parlava, non è che fosse arrivato soltanto a me, era arrivato anche a tuoi colleghi, a giornalisti, a politici. C'erano delle dichiarazioni terribili. Io mi sono detta, ma perché nessuno smentisce? Perché nessuno dice attenzione, guardate, sono fantasie e robaccia? No, c'è stato un silenzio totale. E ne ho parlato con le mie giovani bravissime attrici e mi sono accorta che loro non sapevano nulla. Ne ho parlato con mio figlio e loro non ne sapevano nulla. Cioè, la parola strage, la parola mafia, la parola Borsellino, ma dietro, quello che c'era dietro, nessuno lo sapeva, forse non lo sapevo neanch'io. Allora mi sono rimessa a studiare, a leggere, mi sono accorta che c'era molta poca memoria, c'era distrazione, rimozione, superficialità, ma non solo da parte mia, anche da parte dello Stato e della giustizia. Nessuno più parlava di questo argomento, silenzio. Poi ci sono due, ed è venuta fuori questa pièce. Ecco. Due ragazze si incontrano, una ragazza siciliana, una ragazza toscana. Sì. Si incontrano perché la ragazza siciliana lancia un sasso sulla finestra di questa dell'abitazione della Toscana. La Toscana entra dentro, dà una lite, poi pian piano nasce una presa di coscienza. Questa è un po' la pièce di questa sera. Sì, sì, e soprattutto è come l'idea che la realtà, una realtà diversa dalla tua, ti può entrare, ti può interessare, ti può coinvolgere solo se ti arriva in qualche maniera di sorpresa, in maniera violenta, perché noi cerchiamo assolutamente di evadere da qualsiasi forma di responsabilità, da qualsiasi forma di approfondimento. Siamo tutti molto attaccati ai nostri personalissimi e umanissimi affari nostri, e quindi soltanto attraverso quasi una provocazione, una situazione d'emergenza, forse siamo portati a capire cosa c'è dietro la nostra vita, che è poi la nostra storia, perché questa storia, la storia d'Italia, si posa su una palude, su qualcosa di ancora inespresso, non chiaro, terribile. E finalmente, proprio in questi mesi, mentre noi provavamo, il destino ha voluto che gli organi competenti e anche i politici competenti si siano messi finalmente a siamo fatti queste domande, siano venute fuori, stanno cominciando a venire fuori qualche verità, ma senza queste verità noi non possiamo andare da nessuna parte. È come se la Germania non avesse elaborato un'analisi profonda, critica e anche lacerante sull'Olocausto. Noi abbiamo dietro un tappeto di stragi e andiamo avanti come se nulla fosse, però la nostra storia si basa ha a che fare con quelle stragi, quindi non possiamo avere un futuro se non chiariamo prima quel passato lì. Emanuela, allora sentiamo proprio le due ragazze sul palcoscenico, cosa si dicono in questa pièce scritta da te. Il giudice ce lo diceva sempre a mio padre: quello che temo non è la malvagità dei disonesti, ma il silenzio di quelli che si credono onesti. Io mica mi credo onesta. No, tu sei onesta. Sì, sei. Sì. Io sono onesta, tutta la mia famiglia dice onesta. Onesta, la pizza arriva, ma poi arriva tu, ricordatelo. Il problema è sempre se la vuoi sentire. Vabbè, tu di quello che ti pare, io non c'ho problemi. Quando vado a letto dormo tranquilla. Guardami, le vedi le dita di questa mano? Sì. Uomini sporchi dello Stato, uomini sporchi della Chiesa, uomini sporchi della massoneria, mafia, camorra, che lavora, tutti sporchi sono. L'hai visti questi burocrati dello Stato? Questi ingegneri, questi appaltatori dalle facce sorridenti, macchine belle, mogli eleganti, lì zitto e zitto, con rossetto carino, piccoline. E poi tanta masa pranzo ne esce le zoccole. L'hai visto come rubano i soldi noi? L'hai visto come si scambiano i favori? Beh, devo dire, è un quadro molto molto pungente. Poi lei è particolarmente brava, Emanuela. Queste due attrici sono giovanissime, ma ecco, bravissime. Sì, ecco, brava. Ti ringrazio di averlo detto, che tu hai avuto la professionalità, l'umanità, l'interesse di venire a assistere ad una prova. E sì, ecco, quindi lo puoi confermare. Volevo dire a chi ci ascolta che non esistono soltanto, perché ormai sembra che esistano soltanto veline, o ragazze che così si inventano improvviso, ma esistono anche delle giovanissime ma serissime, ironiche, motivate, serie, semplici, non rifatte, attrici che hanno studiato e studiano e che ci danno veramente una speranza, perché hanno una capacità, una duttilità che per me, che sono regista, è veramente un bene prezioso, insomma, sono i miei gioielli di famiglia. Emanuela, poi tu hai parlato giustamente di una prova, perché tu hai inventato, stai cercando di mettere su, diciamo, in questo momento di crisi enorme del teatro, di tagli di fondi, noi lo sappiamo, lo denunciamo sempre, una struttura a Roma, a Piazza Dante, dove si possono fare delle piccole rappresentazioni e dove si possono fare delle prove aperte, come poi è successo prima di questa pièce che, ricordiamo, è stasera fino al 22 luglio in scena a Roma. Questo è un fiore all'occhiello, credo, un giglio nel deserto. Piazza Dante 8, un'associazione culturale che, grazie al presidente Nicolò Corcos, cerca disperatamente di creare nuove realtà, accogliere idee, cominciare a mettere in pratica a nostro rischio e pericolo, però con un'accoglienza particolare, diversa, informale, aperta a tutte le classi sociali, a tutti, se ancora si può parlare di classi sociali, a tutte le età e a tutte le persone che comunque hanno un'energia, una vitalità, una voglia, una curiosità. E quindi e poi proporremo anche al Comune di Roma e a tutti i comuni d'Italia di poter poi portare questi esperimenti che facciamo in Piazza Dante anche in luoghi istituzionali, anche in luoghi anomali, perché noi vorremmo fare queste storie intorno a un tavolo, che tu, che sei così attenta alla drammaturgia contemporanea, anche scrivi di drammaturgia contemporanea, appunto storie intorno a tavolo che si possono poi raccontare anche nei musei d'arte contemporanea, perché poi l'arte non ha definizioni, non ha schemi, non ha confini, e quindi oggi credo che delle vive installazioni, non delle video installazioni, ma delle vive installazioni siano forse il nuovo confine del futuro, dove il teatro si mischia con l'arte. E a questa prova aperta c'era una scrittrice di alto livello e noi l'abbiamo intervistata. Dare un'anteprima, un assaggio, come la cuoca che fa una torta, dice vieni a assaggiare un po' come è venuta, diciamo così, familiarmente. È un po' questa l'idea. Questo posto è bellissimo, io non lo conoscevo, è molto bello perché è tutto irregolare, uno spazio nuovo che lei vuole adattare anche a fare degli incontri, c'è un pianoforte, quindi è molto bello. E questa l'avrete riconosciuta, è Dacia Maraini, che quella sera proprio nella prova aperta era lì in Piazza Dante a sentire la pièce di Emanuela Giordano. E in Piazza Dante c'era anche un'attrice famosa, un'attrice che noi tutti ricordiamo, Mita Medici. Noi comunque le diremo bene, perché la fatica e il lavoro ci sarà stato comunque, e questo è da premiare sempre. Poi magari se ci abbiamo da dire qualcosa gliela diremo, però voglio dire, a proposito di questo spazio bellissimo, di questa casa, però accoglienza, non so, mi verrebbe da dire, casa del teatro, casa del teatro e dell'arte, delle cose, perché insomma se ne fanno parecchie, visto che chiudono i teatri, si farà il teatro in casa. probabilmente, questo ne è una prova. Ma noi speriamo sempre che i teatri non chiudano. Noi lo speriamo, ma invece poi chiudono, questo è il problema grave, allora sperare non basta più. Insomma, Emanuele, abbiamo sentito Mita Medici, ma soprattutto Dacia Maraini. Che effetto fa avere Dacia Maraini in sala mentre si fa una prova aperta? Beh, Dacia è un'amica, una persona che stimo, è anche una mia, credo, stimatrice, cioè, e quindi è una grande, è una donna di grandissima umanità, di grande esperienza, di grandi capacità. L'ho chiamata proprio perché volevo sapere da lei un po' cosa, appunto, come ha detto giustamente, cosa sentiva, cosa provava a sentire questo breve racconto, e mi sembra che lei ha detto non toccare niente, va bene così, non devi cambiare gli ingredienti. Anche perché si offre una torta. Allora, ci posso offrire qualcosa? Ci posso offrire, chiaramente è un po' un dialetto siciliano, certo. Perché una ragazza, che è quella che poi ha la presa di coscienza e cerca di far ragionare anche l'altra, che è più ingenua, è ovviamente siciliana. Un atto unico in memoria di Paolo Borsellino, scritto e diretto da Emanuela Giordano, grande drammaturgia contemporanea, se mi permetti. Grazie, senza piaggerie, se no non lo direi. 20, 21, 22 luglio alle ore 21:30 presso la centrale Monte Martini di via Ostiense. Andate assolutamente per capire qualcosa di più della nostra storia. Grazie Emanuela. Grazie mille a te e a tutti voi. Summer time. Mamma mia, me devo decidere a corciare gonne. Fammi provare a chiamare la sarta mia, che è quella capace pure me lo fa. Tanto professionista, se intende pure De Orli. È favolosa. Pronto? Che c'è sta, sora Peppa? Che non si può muovere? Che sta a fa'? Sta allunga? Come sta allunga? Santa Rita, proteggeme, che non vanno più corte? Ah, sta allunga il sugo? Grazie, come non detto, in casa richiamo dopo. Beh, compie 90 anni, sì, compie 90 anni la signorina snob Franca Valeri, ricordiamo tutti la sora Cecioni, l'orlò, e soprattutto il fatto una milanese che potesse imitare così bene l'accento romanesco senza rendersene conto. E questa sera a 90 anni Franca Valeri è insieme a Patrizia Zappa Mulas per il festival Via Flaminia ai Giardini della Filarmonica Romana, con Soldi, Soldi, Soldi. Patrizia Zappa Mulas, che cosa vuol dire recitare con Franca Valeri e di che cosa parla lo spettacolo? Beh, recitare con Franca Valeri è un enorme piacere, oltre che un divertimento. Lo spettacolo parla di soldi, come si deduce dal titolo. Sono una serie di racconti. Dell'ossessione dei soldi, dell'avidità, l'avarizia, l'ostentazione dei ricchi, lo spreco. Cioè, abbiamo scelto, Franca e Dio, alcuni racconti d'oro di milanesi doc, Pontigia, Gadda, Arbasino e gli stessi sketch di Franca. Abbiamo composto una serata umoristica sulla ricchezza, e nella quale cerchiamo di parlare di soldi, di cui di solito si parla in modo serio, in un linguaggio finanziario, economico, politico, insomma è un argomento pesante, diciamo, quello del denaro. Noi cerchiamo di raccontarlo non solo divertendoci, ma guardando il fenomeno da un punto di vista degli scrittori che hanno osservato le storture, le aberrazioni ridicole legate a un rapporto distorto col denaro. Ecco, voi venite a Roma, tutti milanesi, scrittori milanesi, poi andrete anche a Milano, immagino. A Milano, sì, il 20 di ottobre, al Teatro della Cooperativa. E sarete quindi in cartelloni con questo spettacolo. Sì. Che cosa vuol dire per una milanese recitare a Roma in un ambiente che sembra sempre un po' ostile ai milanesi? Sia Franca, molto prima di me, che io siamo romane ormai, abitiamo a Roma da Franca da molti anni e io da 10, per cui non siamo in tournée a Roma, noi abitiamo qui, siamo milanesi che vivono a Roma. È molto, la cosa positiva di questa città è che non ti chiede di diventare romana, una milanese può restare milanese abitando al Fleming o a Monteverde. Ecco, ma invece a Milano si chiede di diventare milanesi? Sì, sì, io lo so, ma non solo a Milano, in tutte le città italiane, ogni città italiana ha una forte connotazione specifica, pensiamo a Torino, a Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, insomma, io, Franca ed io, essendo attrici, abbiamo girato questo paese e sentiamo una differenza. Ogni città è fortemente connotata dalla propria storia, dalle proprie abitudini, dalla propria mentalità, dai propri valori. Roma è come un non luogo, è un'utopia e quindi è un non luogo, è un enorme luogo che ha le sue connotazioni, la sua storia, i suoi vizi, i suoi pregi, però che non ti chiede di diventare un'altra cosa. È come un gigantesco Luna Park, meraviglioso da un punto di vista estetico e pieno di problemi come tutte le città italiane, ma nello stesso tempo anche un gigantesco albergo dove uno arriva con la propria valigia, la mette lì e ci si accomoda. Ricordiamo che stasera Franca Valeri e Patrizia Zappamulas in Soldi Soldi Soldi, racconti d'oro di Giuseppe Pontigia, Franca Valeri, Alberto Basino e Carlo Emilio Gadda ai Giardini della Filarmonica Romana alle 21:30, ma come abbiamo sentito dal 20 ottobre al teatro, me lo vuole ricordare che me lo sono già dimenticato? È una serata unica al Teatro della Cooperativa, non stiamo in cartellone a lungo, è un passaggio di Franca che ha altri impegni, anche io ne ho altri, facciamo questa serata a Milano. A Milano, perché dato l'argomento ci sembrava giusto. Allora, via Roma o Milano, comunque sempre Italia, si direbbe così, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Certe mattine una persona si sveglia e si sente un po' meccanico, insomma i movimenti sono un po' sincopati, e allora ogni tanto bisogna anche capire che c'è questo luogo del nostro cervello che è proprio espresso dall'Orchestra Meccanica Marinetti, perché oggi a Peccioli in provincia di Pisa alle 21:30 all'anfiteatro Fonte Mazzola si esibisce proprio l'Orchestra Meccanica Marinetti, una fusione tra umano e meccanico. Non è così, Angelo Comino? Buongiorno a tutti, sì, è esattamente così come avete detto voi. Che cosa fate? Che genere di musica è? Scusi, io sono un po' profana, quindi non riesco proprio a cogliere tutto quanto. Mi può aiutare a capire anche ai radioascoltatori? Sì, ma molto volentieri, ma l'idea è molto semplice. Noi abbiamo creato due robottoni enormi che picchiano su dei bei bidoni d'acciaio, un po' come i tamburi del Bronx, no? E usiamo queste macchine per produrre dei ritmi, delle ritmiche appunto molto industriali. E insieme a questa cosa qua, per lavorare sull'umano e sul non umano, sul confronto con le macchine, ci sono io, che dovrei essere quello più umano del gruppo, che uso la voce attraverso delle macchine speciali per creare delle fasce di suono, e uso una specie di armatura che indosso per pilotare le macchine e per controllare il suono con i miei movimenti. E la cosa è un po' futurista, ma in realtà il suono è, direi, molto contemporaneo, immagino, e quindi è un'area di esplorazione. Stiamo lavorando su questa cosa qui, ci piace sentire le macchine che fanno fatica, che suonano, ci piace sentire gli umani sul palco, e quindi stiamo lavorando per fare uno spettacolo che piace anche alla gente, spero. Allora, ricordiamo quindi l'appuntamento con questa musica nuova suonata dalle macchine alle 21:30 all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli in provincia di Pisa, l'Orchestra Meccanica Marinetti di Angelo Comino, H Motor, no? Questa è la sua definizione. La ringrazio. Grazie a voi. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it, oppure che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it e vedere gli appuntamenti della serata. Quindi a tutti, buona serata.